1864, prorogata la legge Pica al Sud e violenza di Stato. Doveva essere una legge eccezionale valida fino al 31 dicembre dello scorso anno. Invece, l'8 dicembre 1863, a Palazzo Carignano, il governo ha presentato una proposta per modificare, ampliare e prorogare la famigerata legge Pica, lo strumento attraverso il quale l'esecutivo di Torino ha di fatto delegato all'esercito di risolvere la questione del Sud, con mezzi spicci, molto spicci. Sospese le garanzie costituzionali, nel meridione non si contano gli episodi di arbitrio, violenza, terrore di Stato. Non è tanto il numero delle condanne o delle fucilazioni fornito dai dati ufficiali a far parlare di repressione, sono per esempio le notizie di briganti che si sono costituiti e sono stati comunque fucilati senza processo, oppure le fucilazioni di minori, la carcerazione di semplici sospetti, magari sulla base di lettere anonime. O ancora le foto dei briganti morti distribuite come trofei, quella di Nicola Napolitano, seviziato, fucilato e poi ritratto con gli occhi aperti, seduto mentre un bersagliere gli tiene la testa cadente per i capelli, è terrificante. Poi ci sono le sentenze incredibili di alcuni tribunali militari. Quello di Potenza ha condannato ai lavori forzati un delegato di pubblica sicurezza, reo di aver trattato con troppa indulgenza una brigantessa carceriera di alcuni soldati. Certo, qualche risultato si vede. Si è consegnato, ad esempio, il brigante Giuseppe Caruso, luogotenente di Carmine Crocco. Ma qual è il prezzo? Ecco perché anche alcuni deputati non certo morbidi, come Francesco Crispi, hanno cercato di bloccare la legge. Il 4 gennaio di questo 1864, mostrando, dati alla mano, che con la legge Pica gli arresti e le condanne non sono aumentate, ma solo peggiorate nell'arbitrio, Crispi ha pronunciato queste parole. Il Ministero non potrà dimenticarsi che quando è in disordine un paese il quale fu agitato dalla rivoluzione, non mancano le denunce, le calunnie e tutta quella serie di atti disonesti che valgono a turbare la mente dei prefetti e a far deviare la coscienza dal retto e dal giusto. Dunque ritorno al dilemma che poco fa io poneva alla Camera. Se cotanti arrestati lo furono regolarmente, mi pare che dovremmo essere al termine dell'opera di purificazione, onde non vi dovrebbe essere più bisogno di questa legge. Se gli arrestati sono innocenti, allora la legge non raggiunge il suo scopo e noi dovremmo respingerla. Voi vi siete dunque serviti della legge Pica per commettere nuovi delitti, anziché per riparare a torti sociali. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.